esistono due Italie e all'interno di ciascuna altre piccole Italie sparpagliate a marzo. Squilibrio interiore, leggendo il libro storico disarmonico della nostra azione, noi in disparte come nel gioco a carte, due di picche nell'Italia delle sarte, dell'imbroglio e rigerco nella farsalia, migliaia di tesi resi in stasi in aria e nucleo composto dal disinteresse della serpe politica con doppie teste, la prima che adula l'umile dio denaro e l'altra tesa al facile, eppure a rincaro e i problemi affiorano, le questioni tornano, ma giri viziosi annebbiano, oscurano. Noi siamo nell'angolo della sofferenza, ma chi ci pensa? Mafia ed indecenza, la speme geme vedendo questo incendio, la rete lede allontana il baricentro, il nostro posto è il dimenticatoio, noi serbatoio di ciò che detesto, ma attente al voltaggio del superficiale, incombre all'ombre, punizione capitale, standard negativi, ma noi siamo sottomessi, sfregi punitivi in cui siamo persi e immersi, non penso, non sento, agisco in controsenso, nel senso comune falso barlume d'incenso, standard negativi, ma noi siamo i sottomessi, sfregi punitivi in cui siamo persi e immersi, non penso, non sento, agisco in controsenso, nel senso comune falso barlume d'incenso. Guardo il mio stato aggrappato al palo, a stelle strisce, pesante ladro, insostenibile, scheggiato, inaffidabile, degli imperturbabile, viene schiacciato, analizzo come un medico la mia nazione, vedo che varie parti non sono in proporzione, il capo troppo ampio, direi eccessivo, dato da un triangolo, asse del declino, un busto robusto ma pieno di lividi, le so da farsi indici politici, ora critici, il cardio batte a stento, quasi spento, organo dirigistico troppo disattento, gambe e piedi inermi, maciullati da germi, vermi che succhiano i nostri salariati come teni e partiron dall'interiora, e tuttora restano, mangiano ancora, insaziabili, stupidi, civili, ingoiate fango, maiali distruttivi e noi vene otturate dal colesterolo di ingordi e balordi in dispotico ruolo. Standard negativi, ma noi siamo i sottomessi, sfregi punitivi in cui siamo persi e immersi, non penso, non sento, agisco in controsenso, nel senso comune falso barlume d'incenso. Standard negativi, ma noi siamo i sottomessi, sfregi punitivi in cui siamo persi e immersi, non penso, non sento, agisco in controsenso, nel senso comune falso barlume d'incenso. Processo di genere, genesi, stato di degrado, domini intrinsechi, barboni in agguato, strafottenti, ma tanto intransigenti, tangenti ad ambienti, lerci indecenti, Garibaldi falso è la rivoluzione, unificazione, ma non cambia il passo, sfruttati, lacerati, bruciati come paglia, Savoia monarchico, Trinacria che deraglia, processo industriale nell'età giolittiana, regresso e latifondo nella zona siciliana, Giolitti politico ma della malavita, sorto l'apparato garante di Reina, e oggi cosa sfoggi? Templi a turisti ignoti. E oggi cosa noti? Siamo malvisti da non pochi. E oggi come ieri, se non peggiore, la nostra situazione perpetua prigione. Tutto impotenza, niente nella pratica, satica incoerenza e lutta in questa satira. Ci resta una frase che non è periodo di un Empedocle, è stato poco lucido. Standard negativi, ma noi siamo i sottomessi, sfregi punitivi in cui siamo persi e immersi, non penso, non sento, agisco in controsenso, nel senso comune falso barlume d'incenso. Standard negativi, ma noi siamo i sottomessi, sfregi punitivi in cui siamo persi e immersi, non penso, non sento, agisco in controsenso, nel senso comune falso barlume d'incenso. Fa rapidamente sbollire gli spiriti un po' a tutti, e per primo l'ex re che abbandona l'Italia. Restano da rimarginare le ferite che la piccola Jacquerie ha inferto alla neonata Repubblica, testimoniando l'esistenza di una questione meridionale, che è anche urbana e non solo rurale, anche politica e non solo economica.